edizione della sera. E noi chiudiamo quest'oggi presentandovi un libro, è la riedizione di uno dei caposaldi dello psichiatra Massimo Fagioli, Istinto di morte e conoscenza. Questo il titolo per le edizioni L'Asino d'Oro. Ha intervistato per noi l'autore, lo psichiatra Fagioli appunto, Daniela Ubaldi. Con questa intervista noi ci salutiamo, edizione della sera si conclude qui per quanto riguarda questa settimana, dunque torna puntuale come sempre lunedì prossimo, un buon fine settimana a tutti. Istinto di morte e conoscenza ha segnato praticamente una rivoluzione nella teoria sulla psiche umana. Perché è stato così difficile per la nostra cultura arrivare anche solo a pensarla, questa psiche umana? Questo è il tormento, la domanda che mi sto facendo da 40 anni, eccetera. Perché probabilmente, adesso per dirlo in poche parole, tocca l'identità. Ora, l'identità da 3.000, per non dire da 5.000 o 7.000 anni, si fonda sulla ragione, sulla scissione tra veglia, coscienza, linguaggio articolato e comportamento, da quell'altro mondo che è il mondo di un terzo di vita, di un terzo di giornata, che è il mondo del sonno, quando non c'è più la ragione, il comportamento e il linguaggio articolato. Si può verificare tuttora nel 2010 che ancora c'è il vecchio detto di Platone, c'è il vecchio detto che al di fuori della ragione c'è solo o niente o uno strano nulla, oppure c'è la pazienza. L'Italia di quando è uscito la prima edizione è molto diversa dall'Italia di oggi. Per essere proprio schematici, non c'è più il Moloch del comunismo, questa grande storia terribile, per cui ai limiti, se noi consideriamo la storia, i cristiani non hanno dato per inesistente questo pensiero, questa realtà umana, questo pensiero della notte, senza linguaggio articolato e senza ragione, perché dicevano che era il male, e quindi perseguitavano, bruciavano le streghe, gli eretici, eccetera, perché andavano verso l'irrazionale. Per il comunismo, nella teoria del comunismo, questo qui non esiste neppure. Non lo prendono in considerazione per niente. Meglio il peccato. Ma proprio niente. Quindi, paradossalmente, è peggio dei cristiani. Volevo chiederle, appunto, di una cosa fondamentale che lei ha aggiunto a questa nuova edizione. Che cos'è? Beh, questo, ecco, negli ultimi tempi ho vissuto un rapporto con la sinistra, in particolare con i comunisti, impersonato da Bertinotti in particolare, che sembrava particolarmente interessato a questa cosa. E si è sviluppata fino a quando poi lui si è messo da parte e ha lasciato tutto in mano a un certo signor Vendola. E allora a quel punto io ho dovuto assolutamente dire di no. E non tanto per la sua questione più o meno sessuale. Ognuno fa quello che gli pare, quello è un fatto privato. Perché è un cattolico comunista. Difatti poi è venuto fuori che chi si è interessato in maniera assolutamente intelligente è stato Nelson. Stato Marco Pannella e conseguentemente i radicali. E tutto questo percorso. Quelli di area socialista, democratica e non comunisti. E tutto questo percorso ha un legame con la riproposta di questo libro. Certamente sì, per cui pur essendo le proposizioni teoriche le stesse di 50 anni fa, si mette in quest'area che adesso si sta formando. Bisogna riprendere le fila da quest'area socialista, democratica o liberale, socialista, queste zone qui, senza cadere né nel cattolicesimo né nel comunismo. And now, the art of Duane Eddy, the noise of Twang, the sound of Peter Gunn.